Fin dai decenni precedenti, soprattutto a Kreuzberg, quartiere di Berlino Ovest a confine con la parte Est, si era intensificato il movimento di occupazione delle case e degli autonomi, il cui punto di ritrovo era il famoso SO36. Tra il 1986 e il 1987 si forma in questo contesto il Rivoluzionäre Block, un sindacato che riunisce persone del nuovo movimento sociale ed arriva ad ottenere più di 1000 partecipanti. Cosa succede il 1 maggio? Quell'anno Berlino viveva una situazione di particolare tensione dovuta al clima particolarmente repressivo del governo CDU a causa dei preparativi per i 750 anni della città. Inoltre la scena politica tedesca era animata dal FOBO, il Volkszählungsboykott. Questo movimento proponeva di boicottare il censimento pianificato dall'allora governo federale. Il 1 maggio, alle ore 4:45 di mattina, la polizia irrompe negli uffici del FOBO per una perquisizione, fatto che irrita particolarmente gli appartenenti a questo movimento. Quel giorno la tradizionale festa di strada procede tranquillamente fino a quando a metà pomeriggio una camionetta della polizia viene ribaltata da alcuni autonomi. La polizia interviene colpendo con manganelli e lanciando fumogene tra la folla, fatti che scatenano una forte reazione in tutti i partecipanti ed innescano una vera e propria guerra di strada. A quel punto molti simpatizzanti arrivano in soccorso dei manifestanti grazie anche alla diretta diffusa da una radio di sinistra, Radio 100. La battaglia di strada si protrae per tutta la notte fino a quando a mattino la polizia è costretta a ritirarsi fuori dal quartiere a Kreuzberg Sud. Da quel giorno il 1 maggio berlinese è definito rivoluzionario. Quest'anno ricorrono 30 anni da quel maggio 1987 e sono andata a raccogliere qualche opinione tra i partecipanti alla manifestazione. Also, zuerst Perché pensate sia importante essere oggi al primo maggio? Il primo maggio ha una tradizione storica e vorrei adesso staccarmi da Kreuzberg e andare alla tradizione storica del movimento dei lavoratori. Purtroppo questo giorno è negli ultimi anni troppo incentrato sul divertimento. Le manifestazioni sono diventate divertimento. Penso al primo maggio. A Kreuzberg è sempre stata una lotta rivoluzionaria, da sempre una lotta per l'abitazione. Oggi questo problema è anche più forte di prima. È una lotta per l'uguaglianza e la convivenza sociale e questo è il motivo per cui siamo qui. Für das soziale Zusammenleben und das ist der Grund warum wir heute hier sind. Credo si debba continuare le tradizioni e come figlio di operai è importante dimostrare un segnale del futuro in cui noi e le nostre generazioni future vogliono vivere al sicuro. E questo oggigiorno non è così facile. Il primo maggio è diventato oggi un festival per le famiglie, ma dovrebbe risvegliare il ricordo di cosa in realtà è. Ma oggigiorno ci sono anche nuove battaglie. Non è solo un giorno del lavoro, ma un'occasione per portare altri importanti temi all'attenzione del pubblico. Io credo che i temi siano da sempre molto simili, ma nel tempo sono stati espressi in altre forme. Ed è ciò che facciamo anche oggi. Da sempre si chiede una casa decente, che si abbia qualcosa di cui sopravvivere e da mangiare, ossia tutto quello che contrassegna i diritti dell'uomo. Questo c'è da sempre. La domanda è in quale paese mi trovo e quale lotta conduco. Io credo di avere qui un privilegio molto grande perché vivo ancora in un più o meno esistente stato sociale che in qualche modo mi dà la possibilità, anche se non ho lavoro, di esistere. In altri paesi la lotta ha un aspetto completamente diverso. È sempre stato così e rimarrà sempre così. E per questo motivo la domanda è come portare una lotta a non essere più esclusivamente degli intellettuali, ma una lotta in cui diversi gruppi si aggregano. Ci sono intellettuali, classe lavoratrice, persone con diverse origini. Come possiamo far sì che tutte queste persone lottino insieme? Ciò penso sia davvero un tema internazionale. Non bisogna limitarsi a muoverci in piccole strutture nazionali. Ok, möchtest du etwas noch sagen? Ich glaube, das meiste hat sich. Credo che lei abbia già detto tutto. Trovo semplicemente bello che la gente viva questo giorno non solo come un festival per le famiglie. Perché questo è diventato una festa per le famiglie. Si può criticare molto e si deve anche. Si può sempre certo parlare di immigrazione, espatrio, temi molto attuali. Noi tutti scriviamo a livello internazionale cosa ne pensiamo al riguardo e come possiamo nel tempo portare qualcosa di positivo in questa comunità. E non solo gli intellettuali hanno il diritto di dire qualcosa, ma anche noi che siamo nuovi in Germania. Perché tu sei nuovo in Germania? Non so quando si è nuovi, ma quando abiti in un posto si dovrebbe sempre esprimere la propria opinione. Vuole aggiungere qualcosa? Voglio aggiungere che vorrei in questo mondo fratellanza e auguro a tutti un meraviglioso, combattivo e solidale primo maggio. In Zweifel links. Nel dubbio sinistra. Durch. Wirst du noch verrückter gehen? hab. Auf meiner Fahrt in die Klinik zeigt noch einmal die Lichter der Stadt. Sie brannten wie Feuer in meinen Augen. Ich fühlte mich einsam und unendlich schlapp. Durante la demo a Kreuzberg ho incontrato anche una rappresentanza dell'Assemblea di Potere al Popolo di Berlino, che ha deciso di prendere parte all'organizzazione. Ok, grazie mille, concedermi il tuo tempo. Come mai secondo te è importante essere oggi al 1° maggio a Berlino? Ma allora, noi come Assemblea Popolare di Potere al Popolo di Berlino abbiamo deciso di far parte del corteo oggi insieme ad altre organizzazioni internazionaliste che sono presenti a Grosseto, c'è BDS, ci sono altre organizzazioni in supporto del popolo curdo e abbiamo deciso di venire qui perché vabbè, il 1° maggio a Berlino sicuramente è un evento tradizionale, quindi è importante scendere in piazza per partecipare alla manifestazione che è in supporto dei lavoratori, ma non solo, perché diciamo a Berlino si colora di mille altri significati, poi la manifestazione diventa una manifestazione in solidarietà dei popoli oppressi, contro la repressione politica, contro il capitalismo, è una manifestazione che vuole esprimere diciamo i valori dell'antirazzismo e dell'antifascismo in cui anche noi come assemblea ci riconosciamo, quindi niente, il lavoro è stato un po' lungo nell'ultimo mese per coordinarsi con tutti i gruppi, però poi insomma c'è tanta gente, quindi siamo felici. Uno dei temi è appunto chiedere alla Germania di smettere di aumentare il finanziamento pubblico ai militari, insomma questo mi sembra abbastanza preoccupante. Sì, è preoccupante, come è preoccupante anche che il governo italiano continui a finanziare le guerre, soprattutto in Siria, così come in altri paesi del mondo. Anche l'antimilitarismo è sicuramente uno dei punti importanti. Cioè, noi siamo l'Assemblea di Potere al Popolo a Berlino, quindi siamo sicuramente connessi con la realtà italiana, ma ci occupiamo anche di quello che succede qui in Germania, quindi condividiamo quelli che sono tutti gli obiettivi della manifestazione. Il fatto che si facciano politiche internazionali completamente ambigue e mistificatrici, quando poi ci sono appunto potenze dell'Europa come anche l'Italia e la Germania che continuano invece a finanziare queste cose. Quali secondo le persone che partecipano alla manifestazione sono i motivi per continuare a venire al 1° maggio e soprattutto qui a Berlino? Allora, il 1° maggio a Berlino, l'impressione che ho avuto, essendo il mio 1° maggio, quindi le mie impressioni sono soggettivissime, è che sia un po' la punta dell'iceberg, o se vogliamo dire un po' il fenomeno in un giorno di una situazione che però è quotidiana. Per esempio, cioè, il corteo è appena partito, nel pomeriggio c'erano diverse iniziative, alcune nate proprio in contrapposizione, come alternativa a chi non vuole più partecipare al corteo del 1° maggio, perché il corteo del 1° maggio politicamente viene vissuto in maniera divisoria da alcune frange, come è successo per esempio la May Day a Milano dell'anno Expo, quindi una coalizione del movimento berlinese che si è rotta da almeno qualche anno e che si spacca sempre nell'organizzazione. E si è visto per esempio dal fatto che la zona rossa è proprio quella del corteo, non c'è una zona rossa che è quella dove il corteo magari vorrebbe tendere ad andare, ma è proprio intorno al concentramento del corteo. Che quindi, cioè, sembra l'impressione mia tutta personale, è un po' il servizio d'ordine del corteo venga delegato alla polizia. Un corteo che da tanti partecipanti non militanti è vissuto come un corteo contro la polizia, ma in realtà è totalmente gestito dalla polizia, quindi è proprio una mancanza di politica, sia nel quello che comunichi, sia nel quello come lo organizzi. E la parte della festa, anche quella non solo divisa, ma neanche più divisa da quella del corteo, perché è semplicemente militarizzata, tutto gestito dall'ordine pubblico, è questo, cioè è una città normalizzata. E nel 1° maggio lo si vede al massimo, perché nel 1° maggio rivoluzionario alla fine il rapporto di forza del movimento contro la polizia sta tutto dalla parte loro, perché siamo frammentati, perché così. Lancio a favore del 1° maggio, corteo di ieri a Wedding, corteo di quartiere, a occhio non ho poi letto oggi gli articoli, ma tra 5.000 e 10.000 persone nelle vie di Wedding, con le stesse tematiche di questo corteo, però con una coscienza da parte della manifestazione, cioè era un corteo più militante ma comunque numeroso e comunque partecipato. Anche io immaginavo Wedding, essendoci magari tanti turchi, ci fossero rispetto ai curdi e alle bandiere dell'EPG, perché comunque qua i lupi grigi e i gruppi nazionalisti turchi si fanno sentire, e la comunità turca berlinese è conservatrice, se guardiamo il fatto che il referendum pro contro Erdogan, qui hanno vinto i sì, cioè quelli a favore di Erdogan, rispetto a una nazione che in realtà era molto più bilanciata, mi ricordo se erano 51-49, mentre a Berlino il sì ha fatto il 60. Vuoi dire qualcosa di particolare e poi chiudiamo? Sul potere al popolo, che a Berlino comunque, cioè, è stata una bella esperienza, perché praticamente ha costruito la più grande comunità italiana politica a Berlino, perché c'è un altro collettivo che anzi ha molto favorito e ha permesso anche l'esistenza del potere al popolo, il collettivo di Berlin Migrant Strike, all'interno di quale ci sono diverse anime, alcuni compagni fra di noi hanno voluto organizzare la prima assemblea di potere al popolo e la risposta è stata grandissima. 60 persone alla prima assemblea, un'altra cinquantina alla successiva, e alle iniziative comunque si vede sia in piazza oggi che c'è, ma anche il 25 aprile a Rotenissel abbiamo portato centinaia di persone a celebrare un appuntamento che non c'era qua in città, se non al cinema italiano, che il 25 aprile mette in programmazione il film. Gender, camino, la, la, la, don't walk that line. Diaz, nenne mehr eigentlich ein Liebe zu sein. Rebel Diaz, conexión musical, Kamikis, IMC, solidaridad internacional. Kein Frieden in der Mitte. Ja. Rechtspopulisten aus der Mitte machen kein Hitlergruß. Sie sitzen am Schreibtisch rum und schreiben ein Buch. Rassisten aus der Mitte reden nicht über Kanaken, nur von ausländischen Mitbürgern, die es nicht schaffen, sich anzupassen. Sie lesen nicht Mein Kampf, nein, sie lesen Tagesspiegel. Sie tragen nicht Torsteiner, sondern Anzug, Hemd und Fliege. Sitzen bei Menschen bei Maischberger, um zu debattieren, anstatt mit Kameraden auf den Straßen zu marschieren. Rassisten aus der Mitte haben Mitleid mit den Frauen, die Kopftuch tragen müssen und sich nicht zu widersprechen trauen. Doch leider kennen sie keine einzige von ihnen. Aber sie wissen aus den Medien ja eh schon alles über die. Mein das Ziel von Millionen Menschen wäre der Heilige Krieg und der Kampf gegen den Terror, Verteidigungsstrategie. Sie verurteilen Gewalt und wollen kein Blut sehen, doch üben ständig welche aus und wollen es nicht zugeben. Estoy decidido del lado que he elegido. I'ma keep it simple, compañero, te lo explico. Es algo bien simple, no estoy con los giles. Sigo con el pueblo porque el pueblo me lo pide. Soy rebelde, I'm a rebel, I ain't scared to face it. So if you stay quiet, that makes you complacent. You're an accomplice, what did you accomplish? Supporting a big system that's all about the profits. Empty wallets, empty minds, I ain't find a 9-to-5. I ain't never gonna try, like they never stop lying. So you know I draw the line, let the pig draw the nine. Watch me kill him with a rhyme, I ain't part of that concern. Don't walk that line. Radikale Fanatisten in den vorderen Reihen. Yo to camino la línea. Don't walk that line. Extremisten in der Mehrheit, die scheinen liberal zu sein. Yo to camino la línea. Don't walk that line. Radikale Fanatisten in den vorderen Reihen. Yo to camino la línea. Don't walk that line. Extremisten in der Mehrheit, die scheinen liberal zu sein. Lo más peligroso son los que dicen poco. Sonrisa en la cara, pero no comparten nada. Lara flip flopping, mucho dishonest. Closet capitalist, activist not acting. Distracting, dividing, agents moving in silence. Steady riding for the people, lesser of two evils. Liberales con su traje, agenda escondida. Prefiero el enemigo al frente con sus ideas. Yeah, tell the truth, mister. You're married to the system. Some got this picture wrong. How we let this go on? Saying they left or right, but most ain't gonna fight. They'd rather walk that line, never choosing on the side. I got a red light. On a red road for my red paint, my red star. A red man named IMC from Turtle Island, so get y'all's plans ready, my fam's ready, my hand's steady to rip hard. Rip all the fake ones who be flipping the script, so get gone. They take the words but not the action, man, the action they be using them. A pseudonym to the truth of them, believing the hype but they using them. Confusing them with fancy words at a podium and a suit and pen. Fake activists will be moving in, but if we call them out, we hooligans. I ain't the one to judge, hold no grudge, push from the shove, you show mad love. IMC with a fight of me like a warrior and I get it done. Quick God, come on, I'm a chief of the con. Got the light, I don't need a shine. Ish, fill up, miss, good. In my hood, we don't walk the line. Rassisten aus der Mitte denken, sie wären liberal. Wollen handeln, denn es sind die Privilegien in Gefahr. Sie sind alle für Vielfalt und mögen Toleranz. Haben ihren Beitrag schon geleistet, jetzt kommt's auf die anderen an. Sie kämpfen den Kampf für Demokratie und Frieden überall. Fürchten sich vor Unterwanderung, fühlen sich in der Unterzahl. Kennen den Problembezug genau, aber machen immer einen Bogen drum. Und sie wollen nur ihre Kinder sehen auf dem Gymnasium. Reden auf dem Podium, machen gegen rechts mobil. Pünktlich zur Wahl, das bringt bürgerliche Sympathie. Denn Faschos, das sind doch nur irgendwelche Randgestalten. Irgendwo da draußen und ganz einfach auf Distanz zu halten. Don't walk that line. Radikale Fanatisten in den vorderen Reihen. Don't walk that line. Extremisten in der Mehrheit, die scheinen liberal zu sein. Don't walk that line. Radikale Fanatisten in den vorderen Reihen. Don't walk that line. Extremisten in der Mehrheit, die scheinen liberal zu sein. Quest'anno i movimenti di sinistra non si sono presentati coesi all'evento in Kreuzberg. la progressiva svalutazione dell'evento, anche a causa del MyFest, organizzato dalla municipalità, che vede trasformare il quartiere in una grande festa in musica, focalizzata sul divertimento e assolutamente non interessata a tematiche sociali, ha fatto sì che sorgessero altre manifestazioni nella città. Come abbiamo sentito, una delle più importanti si è svolta a Wedding. Hände weg vom Wedding, giù le mani da Wedding, si svolge da 6 anni ed è diventata nel tempo un'importante rete che riunisce varie associazioni, tra cui Obdachlose Hilfe, Weddingshilfe e Pasta. Nicolas Beiersdorf della Obdachlose Hilfe, Aiuto per Senza Tetto, afferma: viviamo tendenze di allontanamento dal quartiere sempre più forti, da una parte dal mercato degli alloggi, dall'altra dalla sicurezza privata e a volte anche dalla politica, che vuole reprimere gruppi ritenuti spiacevoli con la sorveglianza ed il controllo degli spazi pubblici. Gli organizzatori dell'evento hanno chiamato partecipanti alla manifestazione anticapitalista sotto il motto «Resistenti e solidali nella vita quotidiana, organizziamoci». Giù le mani da Wedding supporta un'alleanza solidale nella zona, lavora attivamente tutto l'anno sui diritti sociali e chiede il diritto alla casa e l'abolizione del mercato delle abitazioni, tema particolarmente sentito in Germania, dove la maggior parte della popolazione vive in affitto. Famiglie più indigenti, precari, disoccupati e senza tetto sono esposti al permanente allontanamento dal quartiere, dovuto alla costruzione di appartamenti di lusso e alla crescente violenza razzista. Per questo è sempre più importante essere presenti nelle piazze e nelle strade. A tale proposito è stata dichiarata la Action Woche, 10 giorni in cui sono state proposte azioni di protesta culminate il 30 aprile con la manifestazione a cui hanno partecipato più di 5.000 persone. Ich stöbere im Ghetto meines Hirns und treffe Fragmente alter Persönlichkeiten, das kann schon verwirren. Sie sehen aus wie ich, aber ziehen Grimassen, wie ich, wenn ich Grimassen ziehe, nur am Verblassen. So dass der Hintergrund sichtbarer wird, die Transparenz steigt, bis ein Ich daran stirbt. Zuerst begegne ich einem verdrängten Schmerz, er zuckt verzerrt und er schluckt sehr schwer. Wo die Augen sein sollten, ist der Grund vom Meer. Und aus dem Mund speit der Galle ein verwundeter. Gesenkten Hauptes streift er entlang der Lichtlosigkeit eines wandlosen Raums ohne Richtung und Zeit. Dieser Schmerz hat total resigniert, er will nie mehr was haben, um nichts zu verlieren. Trotzdem drängt er mich, ihn zu befreien. Ich soll noch einmal richtig weinen. Ich bitte ihn, mir zu verzeihen. Und sage nein, ich darf ihm nicht den Ausweg zeigen. Er übernehme die Kontrolle über meinen Körper und zwänge mich auszusteigen. Stattdessen verbann ich ihn tiefer in die Unterwelt zum Friedhof meiner grauen Zellen. Draußen wird es langsam hell. Das ist die Unterwelt, unangenehm. Hinter jeder Ecke können blaue Wunder geschehen. Das ist die Unterwelt, unterbewusst. Achtung, hier steht dein Verstand ständig unter Beschuss. Das ist die Unterwelt, keinem Vertrauen. Überleben klappt hier nur auf eigene Faust. Das ist die Unterwelt, aus Gedanken. Nicht alle, die zurückkehrten, haben bestanden. Um zu entkommen, muss ich durch ein Gebiet. Gesäumt von nach mir greifenden Händen, eine packt mich und zieht. Eine Hand, die aussieht wie meine. Meine eigenen Hände greifen nach meinen Beinen. Nur dass sie knochiger sind und das Blut mehr pulsiert und nach Erbrochenem stinkt. Ich dreh mich um und blick auf mich selbst in Gestalt von verdrängter Wut, eine graue Welt. Ihr Blick ist aggressiv, voller Selbsthass. Ihr versucht zu lächeln, wird gestellt und seltsam. Mit geballten Fäusten, Adern sichtbar auf der Stirn. Vom Zorn zerfressen, hat sie sich in mich verirrt. Diese Wut ist total übertrieben. Sie will nie mehr Kontrolle, um niemals zu siegen. Trotzdem greift sie nach meinem Hals. Sie denkt, ich brächte es dann zu Ende durch Anwendung von Gewalt. bitte sie, mir zu verzeihen. Und sage nein, ich darf ihr nicht den Ausweg zeigen. Sie übernehme die Kontrolle über meinen Körper und zwänge mich auszusteigen. Stattdessen verbann ich sie tiefer in die Unterwelt zum Friedhof meiner Traumzellen. Draußen wird es langsam hell. Das ist die Unterwelt, unangenehm. Hinter jeder Ecke können blaue Wunder geschehen. Das ist die Unterwelt, unterbewusst. Achtung, hier steht mein Verstand ständig unter Beschuss. Das ist die Unterwelt, keinem Vertrauen. Überleben klappt hier nur auf eigene Faust. Das ist die Unterwelt, aus Gedanken. Nicht alle, die zurückkehrten, haben bestanden. Letzte Station, mein Magen, ein Wackerstein. Meine Zunge trocken und im Gesicht kalter Schweiß. Ich bekomm Gänsehaut, aufgestellte Nackenhaare. Die Luft wird knapper, ich muss schnappend atmen. Vor mir erscheint mein ängstliches Antlitz, das immer geduckt mit dem Rücken zur Wand sitzt. Die Arme ziehen, die Knie ans Kinn. Die Sehnsucht danach, wie es wär als Kind. Ihr Blick ist glasig, voller Zweifel. Sie schaut ohne zu fixieren irgendwo ins Weite. Abgekaute Fingernägel, knirschende Zähne. Nasse Hose ohne Mut für neue Pläne. Diese Angst ist totale Verschwendung. Sie will nie wieder warnen, um nie mehr zu bremsen. Trotzdem besteht sie auf ihrem Platz. Und hofft, ich gebe nach, wenn sie einfach lieb fragt. Ich bitte sie, mir zu verzeihen. Und sage nein, ich darf ihr nicht den Ausweg zeigen. Sie übernehme die Kontrolle über meinen Körper und zwänge mich auszusteigen. Stattdessen verbann ich sie tiefer in die Unterwelt zum Friedhof meiner grauen Zellen. Draußen wird es langsam hell. Das ist die Unterwelt, unangenehm. Hinter jeder Ecke können blaue Wunder geschehen. Das ist die Unterwelt, unterbewusst. Achtung, hier steht dein Verstand ständig unter Beschuss. Das ist die Unterwelt, keinem Vertrauen. Überleben klappt hier nur auf eigene Faust. Das ist die Unterwelt, aus Gedanken. Nicht alle, die zurückkehrten, haben bestanden. Das ist die Unterwelt, unangenehm. Hinter jeder Ecke können blaue Wunder geschehen. Das ist die Unterwelt, unterbewusst. Achtung, hier steht dein Verstand ständig unter Beschuss. Das ist die Unterwelt, keinem Vertrauen. Überleben klappt hier nur auf eigene Faust. Das ist die Unterwelt, aus Gedanken. Nicht alle, die zurückkehrten, haben bestanden. Das ist die Unterwelt, unangenehm. Hinter jeder Ecke können blaue Wunder geschehen. Das ist die Unterwelt, unterbewusst. Achtung, hier steht dein Verstand ständig unter Beschuss. Das ist die Unterwelt, keinem Vertrauen. Überleben klappt hier nur auf eigene Faust. Das ist die Unterwelt, aus Gedanken. Nicht alle, die zurückkehrten, haben bestanden. Altra manifestazione che ha visto circa 4.000 partecipanti è stata Wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Dove c'è una villa, c'è anche una via. Organizzata dal Movimento Edonista Internazionale a Grunewald. Grunewald è un quartiere di periferico tra i più ricchi della città, dove gli abitanti vivono tagliati fuori dai problemi della maggioranza, recintati nelle loro ville. L'intento è esportare il rituale del primo maggio a Kreuzberg. Uno degli organizzatori afferma: «La nostra strategia di intervento offre agli abitanti di questa zona la possibilità di rafforzare la loro consapevolezza di responsabilità, di promuovere la mescolanza sociale e di informarsi riguardo a prospettive plurisociali». Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles Micha, um dich geh. mal Micha und die Stieg. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war. Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e abbiamo visto come la storia sia cambiata dal 1987 ad oggi. Anche in una città come Berlino, durante il primo maggio, i movimenti di sinistra sono separati. Ciò è probabilmente dovuto a discussioni interne, ma anche e soprattutto ad una politica nazionale ed internazionale che cerca di distogliere l'attenzione dei cittadini a temi di importanza primaria, come i diritti fondamentali dell'uomo ed il rapporto tra uomo e lavoro. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.